Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. C'è una frase pronunciata da Leonard Cohen che più di ogni altra può fotografare perfettamente la visione del mondo di questo straordinario artista. Per sua natura, una canzone deve muovere da cuore a cuore. In effetti, l'insieme delle opere di Leonard è come un'enorme rete che mette in connessione tra loro gli individui e le loro emozioni. Tutto con sincerità, profondità, voglia di mettersi in gioco e in discussione. Questo grande senso di verità, la capacità di parlare delle vicende umane nelle loro pieghe più autentiche, unite a una vita avventurosa e intensa, rendono quella di Leonard Cohen e dei suoi magnifici destini una storia da raccontare. Lou Reed, che non è esattamente l'ultimo arrivato, lo ha definito il cantautore più grande e influente di tutti i tempi. Lo scrittore Massimo De Cataldo, suo grande fan, ha detto di lui che è un esempio unico di vita vissuta e raccontata in presa diretta, costantemente sopra le righe. L'avventurosa vita di Leonard Cohen inizia nel 1934, il 21 settembre, a Montreal, in Canada, in una famiglia ebraica da poco immigrata nel Nord America. Suo padre, infatti, è polacco e sua madre è lituana. Leonard trascorrerà un'infanzia serena, segnata tuttavia da un evento tragico. Perde il padre a 9 anni. Fatto questo, che inciderà profondamente sulla sua vita. La prima cosa che ho scritto nella mia vita l'ho seppellita. Dopo la morte di mio padre, infatti, ricordo che andai a prendere dall'armadio uno dei suoi tanti eleganti papillon. Presi un biglietto indirizzato a lui e poi nascosi il papillon sotto la neve nel giardino di casa. Avevo 9 anni. Quel dolore fortissimo mi spinse a compiere quel gesto potente, simbolico. Credo poi di aver idealmente scavato in quel giardino per anni. Forse non ho fatto altro nella vita. Crescere senza padre ti fa crescere più in fretta. Diventai, mio malgrado, il capofamiglia. Ero io a fare le parti a tavola. Mi sedevo al suo posto. La sua vita di ragazzino, superato in qualche modo quel lutto ingombrante, trascorre in mezzo a file di villette tutte uguali in Belmont Avenue 599 a Westmount, un quartiere di Montreal. Leonard definirà la sua famiglia ebraica, eppure confortevole. Di lingua inglese, aggiungiamo noi, elemento non banale in una metropoli largamente a maggioranza francofona. I miei familiari non avevano denaro né potere, ma erano ricchi di felicità. Non ho mai sentito né conosciuto il significato di parole come alienazione o isolamento. La mia era una comunità perfettamente autosufficiente, retta da leggi giuste, ideali e grande disponibilità verso il prossimo. In effetti, i valori principali che vengono trasmessi a Leonard dal suo ambiente sono la multiculturalità e l'integrazione. La sua bambinaia, ad esempio, è cattolica e spesso, racconta Leonard, lo porta in chiesa con lei. Da allora lui guarda al cattolicesimo come un outsider. È indubbio però che la figura di Gesù eserciterà negli anni un'attrazione su Leonard. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Il primo magnifico destino che segna la carriera di Leonard Cohen arriva con l'iscrizione all'università. Dopo i primi studi, nel 1951 Leonard si iscrive alla locale ma prestigiosa McGill University. In una classifica degli atenei più importanti nel mondo, i primi 20 sono tutti in Gran Bretagna o negli Stati Uniti. L'unica eccezione è costituita proprio dalla McGill University di Montreal. I primi mesi di studio di Leonard, per sua stessa ammissione, trascorrono felicemente tra vino, ragazze e i primi e rudimentali esperimenti di poesie. Volevo tutte le ragazze che conoscevo, ma non potevo averle. Questo è il vero motivo per cui ho cominciato a scrivere poesie. Scrivevo messaggi per le donne, per sedurle. Loro li facevano circolare e la gente li chiamava poesia. Quando non funzionava con le donne, mi rivolgevo a Dio. Prima dell'incontro fisico che cambierà la sua vita, ce n'è uno ideale. Si tratta di Federico García Lorca, destinato ad essere il suo nume tutelare nell'ambito della poesia. Lo ha scoperto per caso, imbattendosi in un suo libro a metà prezzo mentre gironzolava in una libreria. Il mondo del poeta gitano gli risulta subito familiare. Il suo linguaggio accessibile, come una musica folk bagnata da un chiaro di luna. Aprendo il volume, trova questi versi. Voglio vederti passare sotto gli archi di Elvira per vedere le tue cosce e iniziare a piangere. Oh, quelle parole sconvolsero la mia vita e compresi che la mia esistenza sarebbe stato uno sforzo continuo per scrivere un giorno, almeno una volta nella vita, una frase simile. Questi versi mi spinsero ad iscrivermi ad un corso di poesia. Nel 1954 Leonard si iscrive al corso di poesia dell'Università McGill. Lo tiene colui che diverrà il suo maestro e nume tutelare. Si tratta di Louis Dudek. Dudek è uno dei poeti canadesi più noti al mondo, uno dei grandi padri della corrente modernista e un critico letterario noto e autorevole. La maggior parte delle sue opere viene pubblicata tra gli anni 40 e 50. Dai primi anni 50 insegna all'Università di Montreal. È un docente amato e stimato, dai metodi piuttosto teatrali e anticonvenzionali, straordinario nel catturare l'attenzione dei suoi studenti. Per Cohen è un incontro importantissimo. Dudek fa lezione nel Dipartimento di Arte, edificio centrale, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 5 alle 6. Gli studenti presenti sono circa 50, sparsi per l'aula in maniera piuttosto caotica, con libri e cappotti accatastati ovunque a dare però un senso di familiarità e di calore. Sono lezioni intense, forti, informali, quelle di Dudek, che portano gli studenti a mettersi costantemente in gioco. Portò la mia passione per la poesia al massimo. Fu un incontro determinante per farmi capire, seppure in maniera ancora confusa, con quella confusione che per la verità non ha mai abbandonato la mia vita, cosa volessi fare da grande. Leonard si affeziona subito a Dudek e spesso gli porta da leggere i suoi componimenti. Un giorno gli mostra The Sparrows, forse la prima poesia veramente solida composta da Cohen. Mentre i due camminano lungo uno dei corridoi della facoltà parlando del componimento di Leonard, Dudek ordina a Cohen di inginocchiarsi e con il manoscritto della sua poesia usato a mo' di spada lo insignisce del titolo di poeta. Poco dopo, la poesia di Cohen vince l'annuale premio letterario dell'università, sponsorizzato dal giornale dell'Ateneo che pubblica il testo in prima pagina. Il passo successivo è l'esordio letterario vero e proprio, sempre grazie a Dudek, che spinge affinché la prima raccolta di Cohen venga pubblicata. Leonard ci lavora sodo e riesce a portare a termine il manoscritto che Dudek fa stampare e distribuire presso una casa editrice prestigiosa. La sua raccolta d'esordio è dedicata al padre Nathan e si intitola Let Us Compare Mythologies. Vede la luce nel 1956, quando sta frequentando un anno accademico in trasferta all'Università newyorkese di Columbia e ottiene da subito parecchie recensioni favorevoli. L'anno è lo stesso in cui escono On the Road di Jack Kerouac e l'altrettanto celebre Urlo di Allen Ginsberg, tre grandi poeti americani che decollano tutti insieme. Il primo magnifico destino di Leonard Cohen, quindi, è quello che gli fa scoprire la sua vena poetica, che sarà un elemento chiave della sua musica. Il secondo magnifico destino è quello che lo instraderà verso l'attività di cantautore. Per scoprirlo, dobbiamo trasferirci dal Canada a un'isola greca, davanti ad Atene. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free, Agosto 1960. Leonard Cohen si trova a Londra, ha qui pubblicato il suo primo romanzo, ma è insofferente al grigiore della capitale inglese. Nel corso dell'ennesimo pomeriggio di pioggia, dolorante per l'estrazione di un dente del giudizio, vaga per le strade dell'East End quando nota l'insegna della Banca di Grecia e decide di entrare. All'interno vede un abbronzatissimo cassiere e gli chiede: «Che tempo fa ora in Grecia?» «È estate, fa caldo», risponde il cassiere. Così, in brevissimo tempo, decide di cambiare vita. Si stabilisce nell'isola greca di Idra, nel Golfo Saronico, di fronte ad Atene, una meta classicamente amata da artisti e poeti. Idra è un autentico colpo di fulmine. Tutto lì, dopo le tristi nebbie londinesi, lo entusiasma. Le persone, l'architettura, il cielo, i muli, l'odore, la vita. Tutto ciò che guardavo era bello. Tutto ciò che utilizzavo era al suo giusto posto. Il rumore del mare, il fascino di uno spazio fuori dal tempo, di ritmi che sembrano appositamente nati in contrasto con la frenesia e la modernità della città, spingono l'ispirazione di Leonard Cohen a livelli straordinari di prolificità. È qui che prosegue la sua feconda attività di autore, pubblicando un altro testo di poesie, Flowers for Hitler, e un paio di romanzi assai significativi per il suo itinerario artistico, The Favorite Game e Beautiful Losers. Saranno di lì a breve tradotti in diverse lingue, segnale evidente di una maturazione progressiva. Per scrivere libri hai bisogno di un posto dove stare. Quando uno scrittore lavora un romanzo, tende a circondarsi di determinate cose. Ha bisogno di una donna. Ed è bello anche avere dei bambini fra i piedi, poiché il cibo non manca. Siccome io queste cose le avevo già, ho deciso di diventare songwriter. Prima di diventare cantautore, Cohen diventa autore. In Grecia concepisce le prime canzoni di un certo spessore e le fa recapitare al suo secondo magnifico destino, la cantante Judy Collins, che era da tempo una sua buona amica. Judy Collins è una delle maggiori folk singer americane degli anni 60. Raggiunge il successo nel 1967 con l'album Wildflowers. Nell'album sono contenute due canzoni che Cohen ha composto nel clima caldo e confortevole della Grecia, Priests e Hey, That's No Way to Say Goodbye. And in forest they smile like me and you. Now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say. Leonard scriveva dei pezzi meravigliosi, di rara intensità. Pezzi che mi emozionavano nel profondo, sin dalla prima lettura. Così, pensai, dato che la sua voce ha un timbro meraviglioso, perché non prova a cantarli personalmente? Ero convinta che avrebbe potuto avere successo e in effetti, avevo ragione. Così come Judy Collins aveva beneficiato del talento dell'amico Leonard, anche quest'ultimo trae vantaggio dal consiglio della cantante, accettando semplicemente di seguirlo. La leggenda vuole che Cohen abbia deciso di provare a cantare i suoi pezzi dopo aver ascoltato in prima persona Highway 61 Revisited di Bob Dylan. Sta di fatto che grazie a questi incroci di magnifici destini può avere inizio la carriera di Leonard Cohen. To Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. I magnifici destini. Oggi ai Magnifici Destini stiamo raccontando la mitica storia di uno dei cantautori più affascinanti e importanti della storia della musica, Leonard Cohen. Musicista, ma soprattutto poeta, letterato, straordinario narratore di emozioni. La carriera di Cohen decolla nel 1967, l'anno del suo straordinario album di esordio, possibile grazie ad alcuni fondamentali Magnifici Destini. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living there. Music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building. Alla fine del 1965 Leonard Cohen torna in America, a New York, dopo il suo lungo e fiabesco soggiorno in Grecia. È determinato a diventare un cantautore e ha già scritto alcuni importanti pezzi per Judy Collins. Nella Grande Mela Cohen decide di fare giudiziosamente il giro dei più importanti produttori per proporre il suo progetto musicale. Purtroppo ne ricava ben poco. Qualche porta sonoramente sbattuta in faccia, con considerazioni ironiche sulla sua età, 32 anni, troppo vecchio per iniziare una carriera musicale. Nei primi mesi dopo il ritorno di Cohen a New York, poteva capitare spesso di vederlo in qualche locale jazz la sera, ad ascoltare musica, bere un bicchiere, scrivere, magrissimo, con un'aria da bello e maledetto e addosso tutti i cliché del giovane scrittore. Fino a quando un giorno squilla il telefono di casa sua e la telefonata è quella giusta. A chiamarlo è la vecchia amica Judy Collins. Tramite una giovane produttrice che si chiama Mary Martin, la Collins ha avuto il contatto di John Hammond, uno dei produttori più influenti e sensibili degli anni 60 e 70. La Collins chiede a Cohen il permesso di parlare ad Hammond di lui e di fargli sentire qualche pezzo, permesso naturalmente accordato. Everybody knows the Captain Lad. Everybody got this broken feeling. Like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. L'incontro che trasforma la carriera di Leonard Cohen e rende John Hammond uno dei suoi magnifici destini avviene nella primavera 1966 al Chelsea Hotel, sulla 23esima. Hammond ha invitato a cena Leonard Cohen nel ristorante dell'albergo per parlare della loro possibile collaborazione. Nell'elegante sala da pranzo, i due parlano in modo molto informale, senza entrare nei dettagli di possibili progetti. Cominciano a conoscersi e Hammond cerca di mettere Cohen a suo agio. Poi dice a Leonard: un amico comune mi ha parlato di te, mi ha detto che la tua musica potrebbe interessarmi, vorrei sentirla, ma dal vivo. Così, dopo mangiato, i due salgono nella stanza di Leonard. 6-7 canzoni, così a freddo, in una sorta di esibizione ad personam. Hammond ascolta attento, fumando. Cohen suona una versione ispiratissima di Hey, That's No Way to Say Goodbye. I love you in the morning, our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. But now it's come to distance. Ok Leonard, ce l'hai fatta, nient'altro. Hammond pronuncia solo queste parole con cui di fatto dà il via a una delle carriere più esaltanti e intense della storia della musica. Una settimana dopo, Cohen viene catapultato negli studi della Columbia per registrare l'album. Hammond gli fa da produttore e da mentore, seguendolo passo passo nelle registrazioni. La realizzazione dell'album non fu un'impresa semplice. Leonard non sapeva leggere la musica e non aveva mai messo piede in uno studio di registrazione. Il suo talento era ed è enorme, ma in quell'esordio la sua classe non bastò e in pratica dovetti guidarlo passo passo, in ogni singolo gradino della lavorazione del disco. Cohen non è esperto di studi di registrazione, ma avanza delle richieste bizzarre per trovare l'atmosfera giusta. Luci soffuse, incensi, candele, uno specchio in cui osservarsi cantare, una vecchia abitudine che risaliva addirittura ai tempi di Montreal. Questa specie di studio sacro è lo studio E della Columbia, una mitica sala di registrazione sulla 52esima strada. In questo clima esotico e ipnotico, Leonard Cohen incide il suo capolavoro. Credo che ci siano ben pochi dubbi riguardo al fatto che Songs of Leonard Cohen sia uno degli esordi più straordinari che la musica americana possa vantare. Uscito nel dicembre 1967, Songs of Leonard Cohen è un mirabile esempio di equilibrio di ispirazioni diverse. Da un lato, la longeva e profonda tradizione degli chansonnier francesi, con il loro carico di esistenzialismo. Dall'altro lato, la vitalità del folk americano. Certamente, cantautori americani che in quel periodo andavano per la maggiore, come Bob Dylan e John Baez, hanno influenzato il mio songwriting. Tuttavia credo di avere rispetto a loro una vena meno poetica e più intimistica. Da loro ho assorbito più che altro il sound. Per quanto riguarda le tematiche, il mio orizzonte abbraccia più facilmente cantautori europei come Brassens e Brel. Il tutto viene condito da una sottile vena beat e modi che rende il cocktail irresistibile. I testi sono semplicemente straordinari, con un disincanto da loser che emoziona, scuote. Sempre sinceri, diretti, rendono l'esordio di Leonard Cohen un caposaldo inarrivabile della canzone d'autore. Tra i pezzi contenuti nel suo primo album, una delle canzoni più famose della storia della musica e più coverizzate in assoluto da vari artisti in tutto il mondo. Suzanne. Il testo di questa canzone nasce da una poesia che Cohen aveva composto qualche tempo prima, nel 1966. La meravigliosa donna di cui parla nel testo è Suzanne Verdal, musa ispiratrice di numerosi artisti beat con cui Leonard aveva stretto un profondo rapporto di amicizia nell'estate 1965. Le lunghe passeggiate sulle rive del St. Lawrence River, nei pressi di Montreal, le profonde chiacchierate, i silenzi cullati dal rumore dell'acqua, il tè e le fette di mandarino. Cohen descrive tutto questo con grande intimità e rende in modo emozionante l'idea di questo originale e fortissimo rapporto platonico. Then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her and you want to travel blind. She will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Dal 67, anno dell'esordio di Cohen, fino all'84, anno dell'album Various Positions, la sua carriera procede in maniera esemplare, tra grandi successi, album intensi e pause sapientemente collocate al momento giusto. Poi, come inevitabile, arriva un momento di flessione e di declino, con i tempi che cambiano e il folk cantautorale relegato a genere di nicchia. Il nuovo magnifico destino che lo attende, che riporterà la sua carriera sotto i riflettori dei media e del grande pubblico, risponde al nome di Jennifer Warnes. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. Jennifer Warnes è una cantante americana nota al grande pubblico europeo, in particolare per essere la voce di due famosissimi brani che fanno da colonna sonora a film altrettanto famosi. Il primo è The Time of My Life, dal film Dirty Dancing. Il secondo è Up Where We Belong, soundtrack di Ufficiale e Gentiluomo. Jennifer e Leonard Cohen si conoscono nel 1971, quando lei ha 24 anni. La giovane cantante, allora ancora sconosciuta, va in tour con Leonard come corista e inizia con il cantautore un'amicizia intensa e sincera destinata a durare nel tempo. I frutti professionali di tale amicizia sono le partecipazioni stabili della vocalist agli album di Cohen come corista, ma anche come arrangiatrice dei cori e dei controcanti. Nell'87, quando il successo le ha già sorriso, mentre Leonard è in fase calante, la Warnes pubblica un album di cover proprio di Cohen, che si intitola Fempus Blue Raincoat, un successo straordinario di pubblico e critica. Oh, the last time we saw ya, you look so much older. Famous blue raincoat was torn at the shoulder. Nell'album Jennifer attraversa la carriera di Leonard Cohen dal suo esordio fino ai tempi più recenti. Come chicca per gli appassionati, Jennifer, d'accordo con Leonard, decide di inserire anche due tracce dall'album I'm Your Man, ancora non pubblicato da Cohen. Il risultato di questa operazione, in cui le cover sono reinterpretate e riarrangiate in maniera molto rispettosa, ma in chiave estremamente moderna, è l'arrivo di nuova linfa ai brani di Leonard e la riaccensione dell'attenzione intorno all'opera del cantautore canadese. In Jennifer, e grazie a Jennifer, ho ritrovato una freschezza e una forza che non avevo da molto tempo, da quando ero giovane. Aver sentito le mie canzoni rivestite di un nuovo look, così moderno, mi ha ridato la forza di creare e di sentirmi addosso lo spirito dei tempi. Migliaia di giovani appartenenti a generazioni assai lontane dai grandi successi di Cohen riscoprono i suoi capolavori proprio grazie alla voce di Jennifer Warnes. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning. I magnifici destini. Oggi ai Magnifici Destini parliamo di Leonard Cohen, uno dei maggiori cantautori della storia della musica. La sua musica così evocativa, la sua capacità di addomesticare le emozioni per racchiuderle in canzoni, ha sempre attratto molto il mondo del cinema, che ha spesso offerto a Cohen importanti collaborazioni. If you want a partner, take my hand, or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. Molti sono i registi che hanno voluto la musica di Cohen come colonna sonora ad ogni latitudine. Ad esempio, il grande Robert Altman ha di fatto trasformato il suo film I Compari del 71 in una sorta di lungo video delle canzoni di Cohen, che finiscono per creare uno straordinario connubio con le immagini. In tutt'altra epoca, in tutt'altro luogo e contesto, un regista come Nanni Moretti, nel pluripremiato Caro Diario, ha inserito proprio I'm Your Man di Leonard Cohen. Lavorare per il cinema ti permette di esplorare strade e prospettive nuove, di pensare il connubio perfetto tra musica e immagini, il che è sempre estremamente affascinante. C'è un film però a cui Cohen ha prestato i suoi pezzi, che in maniera particolare riesce a valorizzarli creando un contesto particolarmente curioso. Si tratta di Natural Born Killers, diretto da Oliver Stone e scritto da Quentin Tarantino. Difficile immaginare due mondi autorialmente più lontani di quelli di Leonard Cohen e di Tarantino. Eppure nel film diretto da Oliver Stone, brani come The Future o Anthem danno al finale del film una carica dirompente, riuscendo a conferire alla vicenda pensata da Tarantino quell'atmosfera cupa, sconsolata, disincantata, che solo la voce di Leonard Cohen riesce a tessere in maniera così mirabile. Oltre a scrivere e interpretare le proprie canzoni, l'artista canadese, proprio per questa passione per la fusione tra note e immagini, ama elaborare personalmente i propri videoclip. In questo senso, il risultato più notevole Cohen lo raggiunge nel 1984, quando scrive, dirige e musica con i suoi brani più celebri I Am a Hotel, un corto di mezz'ora che si aggiudica il primo premio al Festival International de Télévision de Montreux, finendo anche per concorrere agli Oscar. Insomma, la vicenda di Leonard Cohen è l'affascinante storia di un mito, di un totem della musica d'autore. A riprova di questa sua centralità ancora oggi, a quasi 50 anni dal suo esordio, artisti di caratura internazionale continuano a rendergli omaggio interpretando i suoi brani. Uno dei più coverizzati in questo senso è il brano di maggior successo tra quelli composti da Cohen negli anni 80, Alleluia. Alleluia è stata interpretata da numerosi artisti, Jeff Buckley, Bono, K.D. Lang, Susan Boyle, Pain of Salvation. A detta di molti, questo straordinario capolavoro di Cohen, un brano capace come pochi altri nella musica leggera di fondere amor sacro e amor profano, di elevare il sesso e la passione amorosa a rituali religiosi e sacri, è una pietra miliare che molti hanno paragonato ad altre canzoni che hanno segnato la storia della musica, come Imagine e Bridge Over Troubled Water. La canzone spiega che diversi tipi di alleluia esistono e tutte le alleluia perfette e infrante hanno lo stesso valore. È un desiderio di affermazione della vita, non in qualche significato religioso o formale, ma con entusiasmo, con emozione. So che c'è un occhio che ci sta guardando tutti. C'è un giudizio che valuta ogni cosa che facciamo. Tra le versioni reinterpretate del pezzo di Cohen, quella di maggior impatto emotivo è la versione del compianto Jeff Buckley, uno dei talenti più sbalorditivi della musica rock, purtroppo scomparso troppo presto. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. La cover di Alleluia che Buckley inserisce nel suo album Grace commuove anche lo stesso Cohen. La versione di Alleluia di Jeff è per me emozione pura. La sua voce è emozione pura. Il suo tormento interiore è stato quello di un artista vero, intenso, che ha sempre tentato di scandagliare se stesso e di fare chiarezza nel proprio animo, pagando per questo uno scotto molto pesante. Ma ogni nota emessa dalla sua voce risuona di questo straordinario spessore. Insomma, da Montreal a New York, da Garcia Lorca a Jeff Buckley, l'arte di Leonard Cohen si configura come un paradigma imprescindibile con cui poeti e cantautori di ogni generazione devono fare i conti per misurare costantemente quanto sia sottile e labile di fronte alla grandezza di alcuni artisti il confine tra la musica e la poesia. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall.